No, che non sia blu, però, ecco, io volevo insistere perché il procuratore ci ha dato veramente delle indicazioni molto precise. Posso fare una domanda a Guarinieri? Sì, certo, naturale. Procuratore, buongiorno, sono Secchi. Senta, ma l'esempio della Food and Drug Administration americana, è possibile replicarlo in Italia, secondo lei, oppure è un modello che non potrebbe funzionare qua? Ma noi abbiamo le strutture che possono essere come quella, come l'FDA, però naturalmente bisogna che, vede, la pubblica amministrazione bisogna che cominci a funzionare molto di più. Non si può pensare che tutti i problemi li risolva la magistratura, no? Oggi noi siamo in una situazione in cui se non interviene il magistrato non si riesce ad andare avanti, ma questo non va bene. Certo che la pubblica amministrazione chiaro. Deve sapersi, deve essere capace di intervenire, incisiva, soprattutto non essere condizionata dai tanti interessi che purtroppo che ci sono in questo settore. Ecco, io la ringrazio moltissimo, procuratore, spero che questa esperienza del modello francese del gruppo di salute riesca a fare il suo percorso, la rinviteremo presto, mi sa. La ringrazio tanto, molto. Grazie. Quello della contraffazione è un problema molto serio ed è importante avere sempre più consapevolezza del cibo che compriamo e che consumiamo. Però oggi, che è il giorno prima della vigilia, vogliamo darvi dei consigli su cosa fare durante le feste per essere più sereni. Chiara, il tuo libro per 10 minuti alla quarta ristampa, un grande successo. Ogni giorno hai fatto una cosa nuova. Com'è stato? Allora, prima di tutto è stato necessario, nel senso che la protagonista del libro è in un pantano perché tutto quello con cui identificava la sua vita, cioè il suo matrimonio e il lavoro, una rubrica che teneva per un giornale, improvvisamente le viene a mancare. Dunque, anziché concentrarsi sull'ossessione, come capita di fare, certo, quando si soffre, e lo fa in effetti in un primo momento, quando diciamo la fase del dolore acuto passa, c'è un'altra fase altrettanto pericolosa, quella dello smarrimento. E le viene suggerito da Rudolf Steiner, per interposta persona, di fare ogni giorno qualcosa che non ha mai fatto. Ah, ecco. Ecco, questo è necessario, ma lo scoprirà solo alla fine del suo percorso, come l'ho scoperto anch'io, perché appunto, come hai detto bene, io prima di scriverla, diciamo, questa esperienza l'ho vissuta, e mentre la vivevo mi sono accorta che era l'unico romanzo che aveva senso scrivere in quel momento. Ecco, tante persone, no, soffrono in questo periodo di Natale, in realtà. Ci consigli le cose che hai fatto e che ti hanno poi fatto sentire meglio? Beh, non a caso il mese che racconto in per 10 minuti va dal 3 dicembre al 3 gennaio, prima di tutto perché in effetti è stato così un anno fa, e poi perché poi c'è questa data così incandescente, che è quella di oggi e tutti i giorni, no? Diciamo che le feste di Natale sono come un evidenziatore: se stai bene stai meglio, se stai male, ecco, quel malessere viene evidenziato. Per esempio, la protagonista al giorno di Natale no, si ritrova. Partiamo dal 24. Che cosa consigli al 24? Il 24 è un gesto surreale. Nel senso, il 24 la protagonista si veste per 10 minuti da Babbo Natale con i Sancho Panza della sua avventura, che sono un ragazzo smarrito anche lui perché è stato strappato dalla sua terra, che è l'Eritrea, e il suo amico più caro gay, che deve scegliere fra la sua identità sessuale e la sua famiglia, che rifiuta la sua identità sessuale. Si vestono tutti e tre da Babbo Natale per 10 minuti. Questo è il 24, è il 25? Più surreale. E il 25 invece, lei, che non crede di avere più una famiglia, invita a casa sua tutti i suoi amici e si ritrova a dire una frase e dice: non mi ero mai accorta quanto fosse piena la mia vita vuota. E a volte in effetti c'è questa illusione ottica. Pensiamo di aver perso tutto semplicemente perché non ci concentriamo sulle cose che invece sono sempre lì. È una per il primo gennaio? Capodanno? No, il primo dell'anno? Allora, tu, per iniziare l'anno. Bene, sì. Tu mi conosci bene e io nel libro, io il primo gennaio di un anno fa l'ho cominciato con 10 minuti di silenzio. Sai quanto è difficile per me? Quasi impossibile. Lo sai. E però io invito tutti tutti gli ascoltatori a cominciare l'anno con qualcosa che non farebbero mai, cioè a dire sì a tutto quello a cui istintivamente direbbero no. Che beh, come certo, per te stare zitta 10 minuti deve essere stata un'esperienza mistica, credo, esattamente. Sì, un modo duro, però quel bene e quel male che fa bene per cominciare l'anno. Ecco, siamo tutti alla ricerca, no? Di equilibrio, di serenità. Tu questo percorso dove ti ha portato? Ma senza dubbio a capire che a volte le abitudini sono dei vizi, nel senso quelle abitudini su cui puntiamo tutta la nostra esistenza, in cui ci identifichiamo e che le crediamo così confortevoli, sono in verità delle trappole per la nostra crescita intellettuale, per il nostro spirito, ecco, quindi a capire questo. E poi a non affezionarsi alle ossessioni, perché a volte poi appunto l'ossessione è comunque una specie di mamma, perché la vita là fuori è complicata e quindi preferiamo nasconderci in un problema che però poi fatalmente si sostituisce alla vita e quindi le prime vittime siamo noi. No, mi sembra un libro di una maturazione interiore profondissima, conoscendoti. Sì, io poi lo dico, poi io quando scrivo i romanzi arrivo sempre, diciamo, a capire quello che ho scritto un anno dopo, quindi diciamo fra un annetto certo, sarò naturalmente ti anticipa, il romanzo anticipa sì. Perché è proprio una ricerca interiore tuo malgrado, un'esigenza. Ecco, ma allora, per chiudere, dopo tutta questa esperienza che hai fatto, ed è tanta ed è molto interessante, la felicità esiste o no? Ma io penso che persone che hanno bisogno di grandi emozioni, come me, che non a caso sono tua allieva, no? Persone come noi, devono, per loro sì, per la felicità esiste anche il grande dolore. Forse dobbiamo mettere in conto il fatto che non sia qualcosa che succede tutti i giorni, ecco, quella è la grande avventura, e la grande umiltà è quella. Sì, però io sono ancora appunto sulla strada, cioè le emozioni forti, che poi sia felicità o dolore, per me è comunque felicità, certo. Perché è qualcosa che almeno è forte, e invece bisognerebbe, e di 10 minuti in 10 minuti si può, perché non a caso la protagonista fa gesti piccoli. Sono proprio fondamentali i gesti piccoli. Certo. Assolutamente. Beh, io intanto non ti faccio neanche gli auguri per questo libro, perché mi sembra che sia già un successo clamoroso. Beh, si sta formando una bella comunità attorno a questo romanzo. Hai presente quando Forrest Gump corre esatto. E tutti si ritrovano a correre dietro? Io mi trovo un po' in quella situazione, sì, devo dire che, e mi fanno sentire meno sola, ovviamente, i lettori che attraverso questo libro si sentono meno soli. Un bacio e un abbraccio e tanti auguri. Grazie, Giovanni. Grazie, Chiara. Ciao. Ciao. La notizia in 3D, come sempre, è stata curata da Sara Tardelli. Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Oggi per la serie dei faccia a faccia della storia, curati da Sara Tardelli, vi presentiamo l'incontro con Bernardo Bentolucci, realizzato nel 1993. Era appena uscito nelle sale Il piccolo Buddha, il primo grande film che racconta la storia e il pensiero buddista. Un film che ha profondamente segnato Bertolucci. Allora Bertolucci, lei aveva detto: ho fatto Il piccolo Buddha per tante ragioni, ma anche perché da 10 anni sentivo che l'Italia non era filmabile, cioè sentivo un'atmosfera corrotta. Da quando? Beh, diciamo dall'inizio degli anni Ottanta, cioè proprio dal momento in cui l'Italia è entrata nel boom economico, in una situazione economica così di grande agiatezza in generale. Proprio in quel momento io ho cominciato a sentire l'odore della corruzione e di quello che va insieme alla corruzione, una specie di diffuso, implacabile cinismo, che è la cosa che mi ha fatto più paura. Ecco, ma c'è stato un momento particolare in cui si ricorda proprio che ha avuto questa sensazione, oppure è stata una cosa capitata poco a poco? Per me il momento di questa mia crisi in Italia è la morte di Pasolini. Per me quello è stato il momento in cui mi è venuto a mancare un grande maestro, ma anche è venuto a mancare all'Italia qualcuno che negli ultimi anni, prima di morire, aveva in qualche modo profetizzato tutto quello che sarebbe accaduto e l'abbiamo visto. Ecco, ma lo considera un caso oppure in qualche modo un fatto profetico? Quello di essere tornato proprio adesso in Italia in un momento così drammatico? Ma sai, nell'atmosfera in cui ho vissuto gli ultimi 2 o 3 anni della mia vita, mi sono anch'io convinto che niente avviene per caso, che qualsiasi cosa che avviene nella nostra vita, ma nell'universo in generale, è un effetto provocato da una causa, e cioè è la visione buddista del destino. Il karma è l'insieme dei nostri comportamenti, e noi siamo gli autori, gli sceneggiatori del nostro destino. Allora Bertolucci, è vero che lei deve la scoperta del buddismo a Elsa Morante, che le suggerì qualche lettura in questo proposito? Molto, molto tempo fa, quando avevo 21-22 anni, la grande Elsa, grande poetessa, grande scrittrice, mi passò un libro, La vita di Milarepa, che lei amava molto. Ci sono tracce di questo in un film prima della rivoluzione che ho fatto nel 64. Poi sono stati da lì è nato l'interesse, ma era un interesse, devo dire, più estetico. Era l'impatto con la bellezza della storia di questo eremita che si nutre solo di ortiche e diventa tutto verde, la barba verde, i capelli verdi, eccetera, eccetera. Poi però sono avvenuti vari incontri ravvicinati con il buddismo. Ma con le letture o con le persone? Sia con letture che con una piccola iniziazione alla fine degli anni 70 avvenuta non rida a Hollywood, in una casa di un amico sono entrato e c'erano tutti questi monaci tibetani seduti per terra che leggevano il libro dei morti tibetani e cantavano recitando, e dopo alla fine c'è stata un'iniziazione e io mi trovai così iniziato innocentemente a qualcosa che poi sarebbe come il bambino di Seattle, ma un pochino sì. E poi ci fu anche un incontro con lo Zen, mi trovai a Tokyo e andai a visitare la tomba di un grandissimo regista giapponese, Ozu. E ci fu ma sempre un fatto prevalentemente estetico oppure non volevo io non volevo accettare l'essenza di quello che mi stava accadendo e cercavo di rifugiarmi nell'estetismo e nella bellezza, nella poesia. E lei come se lo spiega, in qualche modo un pochino accennato adesso, questa diffusione crescente del buddismo in Occidente? Forse il buddismo ha risposte per molte delle domande che ci stiamo facendo e a cui la nostra civiltà in questo momento non riesce a rispondere. Ecco, ma lei la tentazione di restare lì, per esempio, non l'ha avuta? C'è molto forte la tentazione di frequentare il più possibile questi lama tibetani, bisogna dire anche cioè, al pubblico, sia lì che qui, insomma. Sì, ecco, di sentirli, di sentire la loro voce, di discutere con loro. I tibetani sono dei montanari che a 5.000 metri di altezza sull'Himalaya sono riusciti a sviluppare una disciplina di filosofia, di logica, di dialettica, di una sofisticazione, di una raffinatezza straordinari. Allora questo insieme di look montanaro e questa grande raffinatezza del pensiero per me è irresistibile. Ma è un fascino appunto che tira fino a dire insomma resto oppure... Sono contento di sapere che arrivano sempre di più da noi, bisogna sapere quello che è accaduto in Tibet, è terribile, quello che sta accadendo in Tibet, l'occupazione cinese, ma soprattutto il Dalai Lama non vuole neanche l'indipendenza del Tibet, vuole l'autonomia culturale e l'autonomia di poter creare una democrazia, ma sempre all'interno della Cina. Allora Bertolucci, il Dalai Lama che cosa le ha detto? Io sono uscito da questo incontro con un'idea molto precisa. La parola compassione, che i buddisti usano moltissimo, anche il Dalai Lama la usa anche nel film Piccolo Buddha, c'è molto spesso, è una parola che per la mia generazione non aveva molto significato. La mia generazione è nata e si è nutrita al suono della parola trasgressione, certo, non compassione. Quindi insomma non ci interessava. Sono uscito da lì avendo scoperto emotivamente il valore di questa parola, e cioè che dietro la compassione dei buddisti c'è un'alta forma di intelligenza. Ho capito l'intelligenza della compassione. Quindi la compassione è la comprensione profonda del dolore degli altri. Noi cattolici diciamo ama il prossimo tuo come te stesso. Invece nella mia forma di buddismo, quello che ho imparato io, ama il prossimo tuo perché te stesso. Quindi noi siamo gli altri sono noi. Ecco, ma nel mia forma di buddismo cosa vuol dire? Che si sente, insomma, un po' buddista, si sente? No, oggi sono amateur, buddista dilettante. Sì. Ma lei ci crede alla reincarnazione in un senso concreto, voglio dire, oppure solo in senso metaforico? A me è difficile di credere alla reincarnazione nella maniera tibetana. Io credo che la reincarnazione sia nelle idee che rimangono. Cioè, la permanenza delle nella idee. Nella permanenza delle idee. Nella, degli atti, sì. Ecco, ma è sufficiente questa idea di reincarnazione per esorcizzare la morte? Ma io su questo non sono completamente d'accordo. Per il buddismo la reincarnazione è una condanna, e il punto così di fuga è quello di illuminarsi, essere illuminati e scivolare dolcemente nel nirvana, che è l'armonia con l'universo, eccetera. Ma lei in Dio ci crede oppure no? Come diceva Buñuel, grazie a Dio sono ateo. E quindi vale per lei? Sì, da giovani si dice sono ateo con molta noncuranza, nonchalance. Adesso lo dico con un pochino più di sospetto, anche nel sentirlo dire, però mi sento, posso dirlo ancora. Ecco, ma dopo questo incontro col buddismo, lei per esempio il suo rapporto con la morte lo ha cambiato o no? Beh, io sono un po' patofobo, perché ho ereditato da mio padre, insieme all'amore per la poesia, anche una grande ipocondria e quindi una grande paura della morte. Devo dire che con il buddismo ho diminuito molto le tensioni, con tutte poi quelle piccole pilloline di colori diversi che aiutano a diminuire la tensione. Ecco, lei ha detto però che del buddismo le piace il fatto che uno può essere insieme ebreo, musulmano, cristiano e in più buddista, quindi in fondo anche queste religioni monoteiste in realtà mi pare che poi l'attirino da qualche parte. Volevo dire questo, che nel buddismo c'è un'incredibile tolleranza, la stessa cosa non si può dire delle altre religioni. Senta, ma per esempio l'idea di raccontare personaggi della Bibbia non l'ha mai avuto? Ero più interessato da figure nuove che non erano mai state esplorate dalla macchina da presa. Ecco, ma secondo lei l'Occidente fa fatica a trovare in sé strumenti per superare questo periodo di crollo delle ideologie, in fondo che aveva dato tanta utopia e tanta speranza? Sicuramente ci sono dei vuoti spaventosi. Nel mio piccolo, nel mio privato, nel mio particolare, ho sentito un grande vuoto, perché ho sentito che ero stato derubato della possibilità di sognare una certa utopia. Mi sono anche reso conto però che per poter permettermi il lusso, quanto marxista, eh? Sì, certo, per poter permettermi il lusso di questa utopia, dall'altra parte questo lusso era pagato dal dolore di molta gente, quindi credo che sia stato molto giusto, che la storia sia andata nel senso giusto e che specialmente noi in Italia riusciti a seguire il movimento storico in modo armonioso. Ecco, ma per lei cosa rappresenta l'utopia marxista? Che cosa rappresenta? Mi rappresenta qualcosa di superato, mi è sembrato molto giusto, anche se doloroso per tutti quelli che avevano vissuto l'esperienza marxista, soffrendo, lottando, insomma i vecchi che hanno fatto l'antifascismo, che sono stati in galera, così è stato molto doloroso cambiare nome, ma mi sembra giusto che sia avvenuto. Ecco, lei ha sempre detto che i suoi film sono anche dei film politici, è vero anche per il piccolo Buddha? Mi dicevo, un film è politico se accetta o se rifiuta la visione, l'interpretazione della realtà che il regime al potere impone, e quindi le convenzioni. Ecco, in questo senso qualsiasi film è politico, insomma. Tutti i miei film sono basati sui conflitti, uomo-donna in ultimo tango, padri-figli, strategia del ragno, contadini-padroni, Novecento, eccetera, eccetera. Il lama tibetano, protagonista del mio film, è un attore cinese. All'inizio avevo dei grandi problemi, perché era molto delicato prendere un cinese a interpretare un tibetano. Questo attore cinese che interpreta un lama tibetano è, involontariamente, beh, non c'era questa volontà, ma un omaggio che la Cina fa al popolo tibetano in qualche modo, perché è un personaggio talmente politica, straordinario, certo, talmente positivo, proprio nel senso della riconciliazione, sì, che proprio va al di sopra delle querelle politiche. Ecco, lei ha detto comunque, vorrei fare Novecento atto terzo. Quando ha fatto il primo Novecento ha detto mi sacrifico a fare un film con i capitali americani per vincere la scommessa contro i capitalisti, era il periodo rosso marxista fuoco. Ecco, l'ha vinto questo scontro o no? Dunque, vincere lo scontro contro Hollywood, io lo considero un pochino come una sfida, una scommessa, una risposta al cinema hollywoodiano. il discorso sul... Ma perché, scusi, sì. Perché rispetto a lei è sempre mostruosa, virgolette, fra virgolette, diciamo, la presa della macchina capitalistica di Hollywood sul fatto artistico spettacolare. No, io Hollywood, tra i registi che amo di più ci sono registi hollywoodiani, arrivano grandi film da Hollywood. Però Hollywood deve permettere alle altre cinematografie del mondo di esistere, e se non si riesce, ma credo si riuscirà, a fare passare quello che i francesi chiamano l'eccezione culturale, sì, nelle discussioni, esatto, per il General Agreement, sì, per il GATT, sì, c'è il rischio che il cinema europeo, per esempio, sparisca, il che sarebbe tremendamente negativo per Hollywood, perché Hollywood si è nutrito del cinema europeo, è andato avanti grazie a quello che si faceva in Europa. Rischierebbe di uccidere anche i suoi. Non solo, ma io parlavo con migliori. Scorsese, che era un po', aveva una posizione un po' confusa, un pochino ambigua, e l'ho completamente convinto, gli ho detto, ma se Hollywood, se le major hollywoodiane diventano troppo potenti, tu, Lynch, Woody Allen, tutti i registi di un certo tipo di qualità americani, diventerete come degli europei in America e piano piano non avrete più lo spazio per fare i film che state facendo e adesso. Ci si difende con cosa da questo? Ci si difende, per esempio, io personalmente ho fatto questi tre film, questa trilogia orientalista, e in qualche modo, l'abbiamo visto anche con i risultati avuti negli Stati Uniti, è stata una risposta a questo espandersi e soffocare altre culture che del cinema hollywoodiano, insomma. Certo. Ecco, ma il fatto che in Italia, per esempio, il suo film sia distribuito da Silvio Berlusconi, è una cosa che la imbarazza oppure gli affari sono affari e non importa? Beh, intanto non è solo Silvio Berlusconi, è Vittorio Cecchigori per La Penta, la RCS e Silvio Berlusconi Communication si chiama, non è solo Silvio Berlusconi, certo. Communication è un logo, certo. Non credo che la cosa debba andare a turbare la vita del film, non è perché gli affari sono affari. Mix 24, i faccia a faccia della storia. A Mix 24 continua il faccia a faccia con Bernardo Bertolucci. Ecco, comunque lei adesso ha detto la realtà è di nuovo filmabile, la realtà italiana naturalmente. Ecco, in attesa di 900 atto terzo, su che cosa vorrebbe farlo questo piccolo film che ha detto di voler fare? Un film di una grande leggerezza, a basso costo, proprio per provarmi che sono ancora capace di fare film come facevo prima di partire per questa avventura orientale. E proprio lì la scommessa è con me stesso. Certo. Sarà una specie, come si chiamano, commedie intime. Ecco, ma di che cosa e di che cosa dovrebbe trattare? Beh, qualche, ancora preferisco ma c'è una situazione così di una situazione leggerissima, grande intimità, qualche giorno in Toscana sulle colline del Chianti, probabilmente nell'epoca della vendemmia. Si trovano personaggi di tipo così diverso, italiani, inglesi, mescolati. Americani guardano questo luogo così come turisti, così turisti che riflettono, che pensano, insomma, e bevono un pochino burmello. Di douceur de vivre. Non è un film in cui entrerà così violentemente la situazione, così l'atmosfera un po' punitiva, giustamente punitiva, che c'è in Italia in questo momento. Quindi quello è 900 atto terzo. Quello è 900 atto terzo. 900 qui atto siamo terzo. Ancora. Mi è venuto voglia di fare 900 atto terzo quando se ne stava andando Fellini, perché queste due settimane di coma, di agonia di Fellini, credo sono state incredibilmente importanti ed arricchenti per me e credo per tutti, perché siamo noi qui assediati in continuazione dai fatti, ma che esplodono come fuochi d'artificio così. Sì. La presenza di Fellini, che se ne andava lentamente, ha ridimensionato, dato un suo spazio giusto a tutto quello che accade. Ha collocato le cose, le ha restituite un pochino a una certa miseria delle cose. Lui era un grande poeta che se ne andava come un grandissimo lama, lentamente, arricchendoci. Lui è straordinario, ci ha arricchito con i suoi film e con la sua vita, ma ci ha arricchito anche con la sua morte. Allora pensavo proprio alla Dolce Vita, che è uno dei primi film che ho visto, ero giovane, e l'ho visto nella edizione ancora non doppiata, babilonese, dico, certo, perché parlavano italiano, inglese, francese, c'è cioè una svedese, tutto insieme, con sempre dietro la voce di Fellini nel suono diretto era straordinario, che commentava, che diceva Nitona, sorridi, smile, eccetera, eccetera. Era un film. E mi ha detto, mi sono detto, non potrei fare questo 908 terzo, la fine del secolo, si chiamava La Belle Époque, come un'altra specie di dolce vita dove però entrano queste cose così molto molto dure che stanno avvenendo, importantissime nel nostro paese, non potrebbe aiutare un pochino a riflettere sul fatto che non basta mettere 500 uomini politici in galera per rinnovare? Cioè che dobbiamo cambiare tutti un pochino, che dobbiamo renderci conto che questi 10 o 15 anni, diciamo così, di notevole di corruzione hanno corrotto anche tutti noi, in qualche modo, che in qualche modo siamo tutti complici. Che bisogna ripartire da che bisogna riflettere, fare una specie di autoanalisi collettiva. Ma anche individuale, sì. Ognuno, collettiva sì. E individuale, collettiva. Proprio è individuale, importantissimo, allora forse le cose potranno cambiare. Bertolucci, ecco, ma di quelli che questi film a basso costo, questi piccoli film, riescono a fare con successo, come Amelio, Salvatores, Tornatore, Risi o Moretti, lei cosa pensa? Ce n'è uno che ama di più? Amo molto Gianni Amelio, perché forse meglio... ha meglio di tutti gli altri che sono tutti registi validi e hanno fatto le cose più interessanti di questi ultimi anni. Ecco, ma è il linguaggio della televisione a lei non lo interessa? Io ho sempre sognato un momento in cui cinema e televisione si sarebbero così miracolosamente fusi con tutto quello che c'è di straordinariamente nuovo nel mezzo, nell'alta tecnologia televisiva, con quello che c'è invece di straordinariamente antico nel cinema. In realtà quello che è accaduto alla televisione negli ultimi 15 anni è stato di, ahimè, di creare, e lo vediamo nei giovani che venivano intervistati negli ultimi giorni prima delle elezioni, soprattutto a Roma, creare una specie di sottocultura generale molto molto molto insomma c'è una sensazione di un bisogno di protesta, ma contro chi? Contro tutto. Ah no, la protesta deve essere indirizzata, guidata, deve avere una motivazione, una finalità. Qui insomma, allora perché dico, ma sti giovani lo sanno cos'era il fascismo? Lo sanno chi era Hitler? Ho la sensazione che non lo sappiano. Ho la sensazione che dicano... Ma questo non è detto che sia colpa della televisione. No, solo però se insomma, io dico, questa io riflessione... Del linguaggio della questa televisione. Riflessione... Sì, lei parlava del linguaggio, io sto facendo un altro discorso. Questa riflessione sul... su questa autoanalisi collettiva e individuale, sulle complicità personali e collettive con quello che è accaduto in Italia, secondo me dovrebbe essere molto aiutata e potrebbe essere aiutata dai media, soprattutto dalla televisione che è il media più potente di tutti. Allora, in realtà mi dico, la televisione potrebbe essere, dovrebbe essere, sarà, cerchiamo di essere ottimisti, anche una grande occasione di università. La televisione è la più straordinaria possibile università. Fino ad oggi non è stata l'università, è stata una fonte di sottocultura, lo è stata soprattutto da un certo punto in poi, in metà degli anni 70, in cui anche la televisione pubblica ha dovuto mettersi al passo con delle scelte, diciamo, non altamente culturali fatte dalle televisioni private. E tutto questo ha portato a una gioventù oggi che, poverini, ecco, ma lei questa, non questa sono colpevoli però. Ma lei questa televisione università si sente disponibile a farla oppure no? È una cosa che la riguarda o che non la riguarda? È una cosa, in quanto uomo di comunicazione? Sì, forse sì. Voglio dire, io ho la visione di un'università che possa essere come una grande aula magna in cui imparare, ma bisognerebbe un pochino rimmaginarla. Però dico, in questo senso, quando lei mi ha detto la televisione cos'è, la televisione è straordinaria, può essere straordinariamente, ecco, importante in positivo. Fino adesso l'è stata, ho paura, un po' più in negativo. Bertolucci, ecco, volevo chiederle una cosa ancora sulla televisione, ma il linguaggio, lei ha parlato di contenuti, il linguaggio della televisione la interessa oppure no? Cioè qualcosa mi interessa, col quale ha uno stimolo, sente uno stimolo creativo rispetto alla televisione? A me interessa enormemente la contemporaneità, e cioè la diretta, il live. perché è qualcosa che ha soltanto la televisione e nient'altro, perché va al di là della temporalità, al di là delle geografie, al di là di tutto. Questo trovo straordinario. Dopodiché mi interessa molto, sì, l'elettronica. Adesso su questo piccolo Buddha ho avuto delle piccole esperienze di effetti speciali fatti in elettronica, quindi con quello che è proprio il linguaggio base della televisione. E sono anche ecco, lì quello è un linguaggio, l'elettronica è un linguaggio, come no, che ha una come potenzialità no estrema straordinaria. Sì, sì, sì, ecco, molti professionisti della società civile si sono fatti tentare e si sono cimentati con la politica in prima persona. Ecco, lei non ha pensato che potesse essere una cosa da fare questa, in questo cambia, in questa Italia che cambia naturalmente? No, io ho avuto varie volte così delle proposte, certo, da amici politici di partecipare in qualche modo, mi viene ancora da ridere, proprio mi sento talmente lontano, e ho visto che ogni volta che mi sono trovato, vediamo nel caso di Novecento, a fare un film che era dedicato così alla sinistra, era dedicato al Partito Comunista Italiano, il Partito Comunista Italiano ha completamente rifiutato, perché mi sono accorto che tra, diciamo così genericamente, un artista e il mondo politico c'è un enorme abisso. Allora forse io credo che posso dare di più, ma credo che posso dare di più facendo dei film e magari dicendo delle cose anche contro, che non andando a fingere di essere un politico. Quindi così, ministro della cultura di un governo delle sinistre, no grazie. No, ho paura proprio che durerei molto poco. Senta, Bertolucci, ecco, prima di chiudere vorrei chiedere ancora una cosa. Nel piccolo Buddha i bambini hanno un ruolo fondamentale, come anche nell'ultimo imperatore. Ecco, perché? Parlando con il Dalai Lama ho detto: vorrei aprire una finestra su un paesaggio che anche i bambini possono capire. E mi sono detto dopo: ma non siamo anche noi adulti nei confronti del buddismo, noi occidentali adulti, dei bambini? Siamo completamente ignoranti, non sappiamo nulla. Certo. Quindi questo mi sembrava giusto. Poi forse anche perché, non avendo figli, avere un pubblico di bambini è un modo indiretto di avere dei figli. Le dispiace non avere figli? Sì, molto. Ma sa, quando si è così profondamente figli è difficile essere padri. Lei ha detto: quando ho conosciuto il Lama, da quando ho conosciuto il Lama, spendo molto meno in tranquillanti, quelle pillole di cui parlava prima. Ecco, ha capito perché prima spendeva così tanto invece, oppure no? Beh, insomma, qui entriamo molto nel privato. No, cioè io sono anche, mi piace pensare che sono uno dei casi così di, forse della non totale, no, adesso sto dicendo qualcosa che non penso, però insomma ho avuto una lunga analisi freudiana che è durata, non so, dai 20 ai 22 anni, poi con interruzioni ogni film, eccetera. Mi chiedo se in fondo la meditazione, la conoscenza di una filosofia come quella buddista non sia una giusta continuazione di qualcosa che era un po' finito con il dottor Freud e che forse aveva ancora bisogno di continuare. E di lì si arriva a perdere le pillole per strada. Eh sì, forse, forse lo speriamo, insomma. Grazie. Dopo il giornale radio c'è la storia di Mix 24, curata da Marina Miloni. Oggi raccontiamo la vita, le sfide, l'impresa di Walter Bonatti, con le interviste agli amici, i compagni di cordata e alla sua compagna di vita, Rosanna Podestà.